in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Oggi facciamo una cosa un po' diversa rispetto alla settimana. Scegliamo di confrontarci, riguardare, rileggere la maggior parte degli articoli che vi cito. Li trovate anche online, perché in Italia di fatto l'unico sito che ha un paywall, cioè letteralmente un muro a pagamento per consultare alcuni articoli, è il sito del Corriere della Sera. Quasi tutto il resto è gratuito. E quindi riguardiamo articoli della scorsa settimana, articoli apparsi sui settimanali. Cominciamo però da How to Spend It, che è il nostro magazine, nostro del Sole 24 Ore. È uscito venerdì scorso, vi segnalavo, proprio nel giorno in cui erano iniziate le Olimpiadi, quindi in copertina c'era Marco Balic, che è l'italiano di origine veneziana, che ha ideato la cerimonia di apertura dei Giochi di Rio. All'interno però questa settimana vi segnalo un articolo sulla Coppa America. La prossima Coppa America sarà la 35esima, come forse sapete è il più antico trofeo sportivo del mondo. In questo momento siamo ancora in una fase di avvicinamento, perché poi si terrà nel 2017 alle Bermuda, e Bianca Scenti ci spiega come sono queste barche super tecnologiche, che in realtà sono dei catamarani, perché nel corso del tempo è cambiata la struttura delle barche che partecipano alla Coppa America. Sono talmente veloci che quasi planano sull'acqua, le foto lo mostrano molto chiaramente, e per dirvi anche quanto appunto può essere anche pericoloso eventualmente ribaltarsi con una barca così, tutti gli atleti hanno il caschetto. Dall'Espresso, forse avete visto che l'Espresso a partire dalla scorsa settimana non è più in edicola al venerdì, come è stato per quasi tutta la sua vita, ma uscirà alla domenica. Quindi il primo numero del nuovo corso, anche perché è cambiato il direttore. Il nuovo direttore è Tommaso Cerno, ex direttore del Messaggero Veneto. Il nuovo corso appunto è iniziato domenica scorsa con il primo numero firmato da Tommaso Cerno. Il prossimo, il secondo, sarà in edicola domani. Questo lo trovate appunto ancora in edicola. In copertina c'era il referendum, il tanto dibattuto tema sul referendum costituzionale, per il quale probabilmente, dico probabilmente perché la data non è ancora stata fissata, voteremo in novembre, per dire sì o no alla riforma costituzionale già approvata dal Parlamento, ma sulla quale adesso, come sicuramente non avete potuto fare a meno di evitare di sentire, il centrodestra, il centrosinistra e tutti gli altri partiti e movimenti si stanno spaccando. E su questo vi segnalo un pezzo proprio di Tommaso Cerno, il direttore, che fa una provocazione, una nuova rubrica sua che si chiamerà Ghigliottina. La provocazione è questa: forse ricorderete che quando fu annunciato il referendum, Matteo Renzi disse: siccome la riforma della Costituzione è la più importante per il mio governo, se gli italiani la bocceranno io me ne andrò, perché lo prenderò come una sentenza negativa su di me. Nel corso dei mesi ha cambiato idea, ha anche ammesso di aver sbagliato e ha detto: no, ho sbagliato a personalizzare, che gli italiani votino senza considerarlo un voto sul governo, ma si concentrino sulla sostanza della riforma costituzionale. Da qui la provocazione di Tommaso Cerno, un'idea per Matteo: dire lascio se vince il sì, e così un po' spiazzare le carte, no? Perché chi dice che appunto è un referendum su Matteo Renzi, va bene, allora ripeto, spiazziamo un po' tutti quanti, diciamo che se vince il sì io me ne vado comunque. Cioè, in realtà la probabilità che all'inizio era data da Renzi come invece un voto proprio sul suo programma di governo. Un approfondimento su una storia così tipicamente italiana, e che quindi forse non dovrebbe stupire più di tanto, ma in realtà forse dovrebbe stupirci, ed è la cosiddetta guerra tra Milano e Torino per il Salone del Libro. Il Salone del Libro, la più grande fiera del libro che c'è in Italia, si teneva ogni anno a Torino. Probabilmente ci sarà ancora una fiera lì, però si è sempre detto che in realtà la capitale italiana dell'editoria è a Milano, perché a Milano ci sono la maggior parte degli editori, delle case editrici, dei service editoriali, E quindi era più, sarebbe sempre stato idealmente più giusto tenerla a Milano. E dai, e dai, e dai, dopo tanti anni, alla fine l'Associazione Italiana degli Editori si è spaccata, e come racconta Bruno Manfellotto dell'Espresso, sull'Espresso a pagina 53, nella guerra Milano-Torino per il Salone del Libro c'è molto provincialismo e nessun progetto. E il fatto vero è, il dato vero, al di là di queste polemiche, è che in Italia si continua a leggere troppo poco. La copertina di Io Donna di questa settimana è dedicata, anche se il settimanale si chiama Io Donna, ogni tanto fanno questa scelta un po' bizzarra di mettere in copertina un uomo. Questa settimana è Luca Argentero e ovviamente all'interno c'è un'intervista su di lui, un ritratto. L'attore Luca Argentero che ha iniziato la sua carriera nello spettacolo, tra l'altro partecipando al Grande Fratello. Ma vi segnalo invece a pagina 60 e 61 un suggerimento per un viaggio per le vacanze di Maria Teresa Montaruli, Montagne a pedali, e ci racconta come si possa appunto fare questo percorso in bicicletta all'ombra delle Dolomiti, tra i boschi del Trentino, seguendo piste ciclabili slow oppure ad alto tasso sportivo, pronti ad affrontare le salite dei campioni. E davvero ci sono dei luoghi, le Dolomiti, ma anche in Liguria ci sono molti sentieri per le biciclette che attraggono davvero, diventano un'attrazione turistica per sportivi almeno di tutta Europa e forse che vengono anche da più lontano. Di della Repubblica, vi segnalo la rubrica di Vittorio Zucconi che ci racconta con il suo tono sempre molto spiritoso che l'ultima fabbrica rimasta in vita che produceva i VCR, cioè i videocassette recorders, i videoregistratori, ha deciso di non produrli più. E Vittorio Zucconi dice: peccato, aveva cambiato il nostro modo di guardare la TV e quindi di vivere. Probabilmente ci sono tante persone, magari i famosi millennials, cioè le persone nate tra il 1980 e il 2000, i consumatori del presente e del futuro, che non sanno nemmeno che cos'è un videoregistratore o magari non l'hanno mai utilizzato e comunque probabilmente non avranno più la possibilità di farlo. Federico Rampini, che forse ricorderete, settimana scorsa ci raccontava la sua esperienza alle convention del Partito Democratico e Repubblicano. Questa settimana lui è corrispondente dagli Stati Uniti, ci racconta come tornando da quelle convention ha usato i treni e si è accorto proprio, ha sperimentato un fatto che effettivamente noi non conosciamo molto perché quando andiamo in America o ci spostiamo, atterriamo in una città e restiamo lì oppure ci spostiamo in aereo perché l'America è veramente grande, vasta e pensate che appunto è un paese dove all'interno del paese ci sono dei fusi orari di 3 ore. Però i treni esistono e quando a me è capitato tanti anni fa, ma evidentemente la situazione non è molto cambiata, sono treni molto indietro, molto arretrati rispetto a quelli europei e sicuramente anche a quelli italiani. E quindi il titolo della rubrica In treno dove l'America è un paese del terzo mondo. Passiamo a un altro argomento. Questo è un mensile che non so quanti di voi conoscano, si chiama Prima Comunicazione, esce una volta al mese, quindi il numero in edicola adesso è quello di agosto. È un po' per noi giornalisti, è un po' una specie di, non dico novella 2000, però sicuramente un mensile che dà tutte le notizie, rumors, anche qualche pettegolezzo sul mondo dell'editoria, dei giornali, della pubblicità. E ripeto, in un certo senso un po' autoreferenziale, però questo numero in particolare ve lo segnalo perché la copertina è dedicata a quella che viene definita la rivoluzione di Francesco, Papa Francesco, che ha stravolto tra le tante cose, tra i tanti cambiamenti che ha introdotto, questo non era evidentemente una priorità, però adesso ha fatto anche questo, il cambiamento della struttura di comunicazione della Santa Sede. Buttare giù il vecchio sistema di comunicazione e tirarne su uno nuovo. Papa Bergoglio ha affidato il compito a Monsignor Dario Edoardo Viganò e all'interno, a partire da pagina 39, trovate appunto il programma di questo Monsignore che ha 54 anni, è cresciuto in Brianza, ha un dottorato in storia del cinema e dal 2013 al 2015 ha diretto il Centro Televisivo Vaticano e ora per volontà di Papa Bergoglio questa è la sua carica ufficiale, prefetto della Segreteria per la Comunicazione. Credo che Papa Bergoglio sia considerato già un grande comunicatore, però appunto ha voluto dare una struttura nuova anche a questa parte del suo pontificato. Tra l'altro, forse ricorderete, durante le giornate mondiali della gioventù, Papa Bergoglio ha anche dimostrato di sapere, avere una certa dimestichezza con i social network, e ha anche fatto alcune sue considerazioni sulla necessità di evitare un uso esagerato di questi social network. L'altro tema di cui si è parlato molto fino a qualche settimana fa, e adesso poi vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane, è quello del Corriere della Sera, la conquista di RCS Media Group da parte di Cairo Communication. E qui Umberto Cairo viene definito l'uomo dei miracoli, perché il miracolo che è chiamato a fare è quello di risanare i conti di RCS, che non sono messi benissimo. La copertina di Panorama, da ieri in edicola, il nuovo numero. La settimana scorsa, lo ricorderete, c'era una ragazza di Schiena, mezza nuda, anche se appunto essendo di Schiena non si vedeva molto, ed era dedicata ai tatuaggi. Questa settimana invece è un'inchiesta che riprende, forse lo ricorderete, chi almeno come me, insomma, è nato negli anni 60, il titolo, la scritta di 30 anni fa sulla maglietta di Madonna, Italians Do It Better, che letteralmente vuol dire gli italiani lo fanno meglio, ma il doppio senso era stato dato per scontato fin dall'inizio. E allora Panorama dice: 30 anni fa questa consacrazione, oggi non è più così, parola di donne, c'è cioè questa inchiesta, non so, definiamola molto estiva. Poi, per chi si fosse perso i consigli di Enrico Pagliarini, che peraltro trovate sui podcast sul sito di Radio 24, su Panorama c'è anche una panoramica delle app che, secondo appunto i giornalisti di Panorama, sono da portarsi in vacanza. Ne fa l'elenco di 16 app, aiutano a fare la valigia, a trovare la toilette più vicina, inviano al posto nostro le cartoline, ci fanno entrare alle feste più esclusive. E trovate questo a pagina 26 e 27 di Panorama. Mentre, visto che siamo in radio e io adoro questo mezzo, come spero tutti voi che ci state ascoltando, sempre su Panorama c'è un articolo che si intitola, di Sara Manisera, che si intitola La radio clandestina che sfida l'ISIS. Questa radio si chiama Al-Ghad FM, trasmette musica, programmi culturali e di approfondimento in modulazione di frequenza. Per i cittadini di Mosul, che sono ostaggio degli integralisti islamici, è l'unica possibilità di restare in contatto con il mondo libero. Per il califfato, invece, è un nemico pericoloso da abbattere con ogni mezzo. E trovate questo interessantissimo racconto dalla pagina 54 alla pagina 57 di Panorama. E il direttore della radio, Mohamed Al-Musali, dice: uno dei nostri doveri è aiutare le persone a recuperare la normalità. E a proposito di paesi lontani, di migranti, di persone che scappano dalle guerre, dall'Avvenire una storia bellissima di un cardiochirurgo che lavora al Policlinico San Donato qui a Milano. L'articolo si intitola I mille cuori di Nuri, medico curdo, perché appunto la storia di questo medico, che adesso è un cardiochirurgo, si chiama Al-Quat Nuri, ha 35 anni, è curdo, e se oggi è un talento della cardiochirurgia pediatrica, lo deve nell'ordine alla guerra, alla sua famiglia, all'Italia. Racconta: sono nato a Erbil nel 1980, già pochi giorni dopo è scoppiata la guerra tra Iran e Iraq. La mia infanzia era scandita dalle bombe, mio padre restava nascosto in casa per non essere catturato dagli iracheni e mandato a combattere in una guerra non nostra. Quella di Nuri era una bella famiglia, scrive il giornalista dell'Avvenire Lucia Bellaspiga, che racconta questa storia, ricca delle cose essenziali, amore e cultura. E quindi un altro virgolettato di questo medico: amavo la musica e i miei mi fecero studiare pianoforte. Non potendo mai uscire di casa per la guerra, suonavo tutto il giorno alla pianola. Poi nel 1991, quando questo ragazzo aveva 11 anni, ci fu l'invasione irachena che costrinse i curdi a quello che viene definito un esodo biblico, da cui poi appunto trovate la storia poi completa sul sito dell'Avvenire, l'arrivo in Italia, gli studi in medicina, la laurea e il lavoro come cardiochirurgo al San Donato. Da Vanity Fair invece di questa settimana, in copertina c'è Margot Robbie, che è la protagonista, è la nuova Jane nell'ultima versione cinematografica di Tarzan, ma vi segnalo, più che l'articolo su di lei, che peraltro può interessare, può essere anche interessante e divertente, un servizio sui tatuaggi. Ne parlano tutti, abbiamo detto settimana scorsa la copertina di Panorama dedicata ai tatuaggi. Qui trovate i segreti del tattoo a partire da pagina 144 di Vanity Fair, che definisce i tatuaggi i racconti della pelle. E E proprio su questo c'è un altro bellissimo articolo che ho scovato questa settimana, era sul Manifesto, che cerca di spiegare questa mania, in effetti, che è scoppiata negli ultimi anni per i tatuaggi. E vi leggo l'ultima parte, perché la teoria è un po', il tatuaggio è veramente qualcosa che ci rende unici. Non può sembrare banale detto così, ma Alberto Olivetti, che è l'autore di questo articolo, lo argomenta molto bene. Milioni le mani uguali alle mie, a miliardi nel mondo, e reni e fegati e globi oculari innumerati nel traffico globale di organi. È il tatuaggio la parte irrepetibile, non estraibile, non sezionabile, non reimpiantabile del mio corpo. Io sono il mio tatuaggio. Però in effetti, forse appunto, se si chiede a qualcuno: ma cosa ti è venuto in mente di farti tatuare, specie se magari sono tatuaggi che coprono ampie parti del corpo, forse la risposta è questa: è veramente qualcosa che rende il mio corpo, e quindi forse anche me stesso, assolutamente unico. Però ora ci fermiamo un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Eravamo sui settimanali o comunque sugli articoli che ci siamo persi, e ce n'è ancora qualcuno che vi voglio segnalare. Da Internazionale, che come vi dicevo settimana scorsa ha questo numero doppio, venerdì prossimo troveremo il numero, diciamo, normale. Questa cosa del numero doppio succede in estate e a cavallo di Natale. Il numero dell'estate è dedicato al viaggio. Settimana scorsa vi ho segnalato il reportage dal fiume Mekong e da tutte l'incubo delle dighe che incombe su questo lungo fiume cinese. Oggi vi segnalo un piccolo articolo di Elisier Budasov di questo magazine peruviano che si chiama Etichetta Negra, che è proprio dedicato a che cosa significa viaggiare. Si dice che viaggiare aiuta a superare i pregiudizi, ma qualsiasi viaggio da soli comincia con un momento di discriminazione. Dopo esserci seduti in autobus o in aereo, guardiamo quelli che avanzano nel corridoio e dentro di noi scegliamo chi preferiremmo come vicino. È un monologo interiore che non conosce il politicamente corretto. Fa che non mi capiti quel signore anziano che cammina a fatica, quella donna con un bambino frignone, quella signora che barcolla con i suoi 120 kg, o quell'uomo sudato che non vede l'ora di raccontare a tutti la sua vita. E poi vi leggo l'ultima parte. Dopo aver combattuto interiormente con l'idea di condividere il nostro spazio con uno sconosciuto, arriva il momento in cui togliamo il gomito dal bracciolo, riusciamo a rilassarci e a dormire nel nostro angolo. Dopo qualche ora di volo ci svegliamo, ci guardiamo intorno e siamo perfino capaci di sorridere alla mamma con il bambino frignone. Abbiamo rinunciato a mantenere il controllo. Siamo in viaggio. E questo lo trovate su Internazionale. Su Grazia, invece, il magazine, anche questo settimanale, la copertina è dedicata a Bianca Balti, e così come insomma, vi segnalavo la copertina di Vanity Fair con un'attrice americana. Ovviamente c'è poi un'intervista, ma dalle pagine interne, alle pagine 28 e 29, un bel racconto abbiamo parlato prima delle giornate mondiali della gioventù che si sono tenute a Cracovia, in Polonia, dove il Papa incontra i giovani e giovani cattolici di tutto il mondo. Era la 31ª di queste iniziative. È il racconto di come Ludovica, che ha 16 anni, era una di quel milione di ragazzi, forse anche più, che ha fatto questo viaggio. Ce lo racconta, e poi ci sono anche foto, che naturalmente anche con l'arrivo di Papa Francesco, e poi i momenti in cui i ragazzi stavano insieme, anche senza essersi mai conosciuti prima. Dalla lettura del Corriere della Sera, anche in questo caso, in edicola ancora per oggi, poi domani ci sarà il nuovo numero perché la lettura esce la domenica. Sempre a proposito di vacanze, un divertente articolo di Francesco Piccolo, che è uno scrittore, sceneggiatore, ma anche spesso giornalista, nel senso che scrive questi lunghi racconti, ad esempio per il Corriere. Questo è dedicato agli hotel. Il titolo è Miramare, Miramonti, Bella Vista. E vi leggo l'ultima parte. Il fondamento di tutto questo, quindi l'andare per alberghi, c'è la passione e la comprensione per gli alberghi, che purtroppo non tutti mostrano di avere, sbagliando. Perché se uno non capisce la bellezza di appendere Do not disturb alla maniglia della porta, il letto rifatto da qualcun altro, il caffè o l'aperitivo messo in conto alla camera, la colazione a buffet in cui si mangia in modo spropositato mentre quello accanto abbronzato e ancora luccicante di doccia mangia lo yogurt con dentro delle cose strane che potrebbero essere anche pezzi di frutta, fretta. Due che urlano di piacere dall'altra parte del muro alle 6 di mattina. La signora delle pulizie che dice ripasso dopo. La tentazione di dare ogni cosa alla lavanderia e di mangiare per tutto il resto della vita un club sandwich sul letto insieme alla persona che ami. Se uno capisce la bellezza di tutto questo, allora la vista mare o monti o lago non serve a niente. È tempo perso. Il piacere è semplicemente quello appunto di essere in albergo. A proposito di partire, di viaggiare, Daniela Monti invece sul Corriere della Sera trova un altro spunto per parlare di vacanze. Il pezzo si intitola Freud formato valigia. La vacanza andrebbe scelta in base alla nostra personalità. Il filosofo Alain de Botton sostiene che dovrebbero esistere delle agenzie di viaggio psicoterapeutiche che ci aiutino a capire che cosa cerchiamo nella pausa estiva, che è come dire di cosa abbiamo bisogno per rimettere sulla strada giusta la nostra vita. Colpa nostra se non sappiamo interrogarci fino in fondo e darci una risposta, lasciandoci catturare dall'offerta o dalla moda del momento. Va bene tutto, l'importante è staccare, andarmene via da qui per poi lagnarcene al ritorno. E Daniela Monti cita un articolo apparso sul quotidiano inglese The Telegraph: siamo inondati di consigli su dove recarci, ma non ci chiediamo davvero il motivo per cui dovremmo andare in questo o quell'altro posto. Poi dà un elenco di destinazioni giuste: Detroit per chi è preoccupato per il futuro, la spiaggia di Pefcos a Rodi per liberarsi dall'ansia, Medellin in Colombia per gli eterni insoddisfatti, perché lì anche un abiro, il dentifricio e le lenzuola pulite sono un vero lusso. I preparativi della vacanza sono un sogno a occhi aperti in cui ci vediamo, spiritosi e affascinanti, muoverci su un fondale nuovo. Le vacanze vere sono altro, cambia il paesaggio, ma siamo sempre noi. E a proposito di scegliere la vacanza giusta, ho scovato in edicola questo mensile che si chiama Rizza Psicosomatica, forse molti di voi lo conoscono. Sono sempre affascinata da chi dice di, insomma, avere le ricette facili per risolvere grandi problemi, siano questi problemi di geopolitica o medici o, come in questo caso, personali. La copertina di questo numero è questa ed è mi ha molto colpito. Così fai volare l'autostima. Ecco le cose da fare che spazzano via lo stress di tutto l'anno. Secondo l'articolo di questa rivista, bastano 10 minuti al giorno per far sì appunto che la vacanza ti cambi un po' la vita. C'è un elenco anche divertente dei segnali psicosomatici, per l'appunto, cioè quando si somatizza, quando il corpo, il soma, raccoglie gli stimoli della mente, soprattutto si usa in senso negativo, quindi le malattie psicosomatiche sono quelle che vengono non davvero per una causa organica, un perfido batterio o virus, ma nascono nella nostra mente, da disagi nella nostra mente. È divertente anche quest'altra tabella perché è tutto scritto in modo molto, molto schematico, molto facile da leggere e chissà, magari anche da mettere in pratica. 4 errori da non fare in vacanza. 1. Subire gli altri fa male a te. 2. Le repliche ti sfiniscono, quindi portare in viaggio le stesse dinamiche che si vivono a casa significa non partire affatto. 3. Staccare è sinonimo di noia. La vacanza non è il tempo per fermare la vita e non fare niente, non è questo il riposo che ci serve, semmai quello per smuoverla, lasciando emergere le inclinazioni e i talenti che possono aiutarci a essere felici. 4. Stop ad aspettative e progetti. Devo organizzare, far fruttare il tempo, divertirmi, incontrare le persone giuste. La vacanza si trasforma così in un progetto di lavoro. E c'è anche molto altro in questo servizio, e ci sono anche, tra l'altro, in questo numero, anche tanti altri articoli. Per chi mi conosce un po', non sarà una sorpresa quella segnalazione la prossima segnalazione che riguarda i gatti. È un articolo di Oscar Grazioli apparso sul giornale che si intitola Paese che vai, miau che trovi. Ecco il vocabolario dei gatti. Se all'estero volete accarezzare un micio straniero, dovete riconoscere i richiami felini nelle varie lingue. Quindi in realtà non sono i gatti che parlano delle lingue diverse, siamo noi amanti di gatti che ci rapportiamo con loro in un modo leggermente diverso per quanto riguarda soprattutto il linguaggio a seconda del paese dove viviamo. Per esempio, ci racconta sempre Oscar Grazioli, in Romania e Australia per accarezzare un gatto dovete chiamarlo pis pis pis, simile al richiamo australiano pus pus pus. A Varsavia invece in Polonia kicci kicci kicci e via così. È un articolo, ripeto, molto divertente. Su Focus di questo mese invece, sempre a proposito di animali, il mondo visto con i loro occhi, un bellissimo articolo che trovate alle pagine 66 e 67 e seguenti, che si intitola Con gli negli occhi degli animali. Com'è il mondo per un rapace, per un gatto, per un pesce? Molte creature vedono in modo diverso da noi e la tecnologia cerca di imitarle. Tanto la cosa interessante di Focus da qualche tempo è che alcuni articoli sono in augmented reality, cioè realtà aumentata. Questo è uno di questi. Quindi se si inquadra la pagina, penso avendo scaricato l'app di Focus, si possono poi ingrandire e quasi far vivere queste immagini. Pensate, non so, davvero ci sono delle foto spettacolari. Un falco, spiega Focus, come il gheppio, può distinguere una cavalletta nell'erba a 100 metri di distanza. Oppure in un secondo l'occhio umano vede 50-60 immagini, gli insetti volanti 5 volte di più. E c'è appunto il racconto che spazia dai felini, come abbiamo visto, ai pesci, agli insetti, su come vedono. Poi tantissimi altri articoli su Focus per chi è appassionato di divulgazione scientifica. Ce n'è per esempio uno che mi ha molto colpito, perché tra l'altro è un po' una rubrica fissa di questo mensile, che è dedicato a come anche in medicina la tecnologia potrà fare miracoli, non solo la ricerca, quella da sempre, ma proprio la tecnologia e l'intelligenza artificiale. E quindi su questo numero c'è un'intervista a Curie, che si occupa Chief Health Officer della IBM, una delle più grandi aziende tecnologiche al mondo. Il titolo dell'intervista è: un software ci aiuterà a restare sani. Si chiama Watson Health ed è capace di leggere milioni di testi specialistici al secondo, capirli, imparare e aiutarci a trovare una diagnosi, una cura o ad adottare uno stile di vita più sano. Inutile che io aggiunga che naturalmente bisogna stare molto attenti con questa corsa a cercare su internet un'alternativa al rapporto invece nel mondo reale con il medico. Però sicuramente, per esempio, nella fase di analisi di tutti i dati, un software può essere molto utile. Dal settimanale invece Origami, che viene allegato alla stampa. E si chiama così perché, se voi lo vedete, sembra un foglio A4, però per leggerlo non si può sfogliare, bisogna aprirlo, spargerlo su un ripiano. E l'ultimo numero era dedicato alle letture per l'estate. Leggere allunga l'estate ed è molto divertente, perché su tante pagine ci sono un po' opinioni a confronto su chi, non so, dice: leggete solo romanzi, no, leggete solo saggi. E alla pagina 2 Bruno Ventavoli dice: osate, leggete lungo, quindi libri a partire naturalmente dalla recherche di Proust. E invece Massimo Gramellini, che della stampa è vice direttore, dice: ribellatevi. Leggete breve, vi leggo le prime righe. Ribellatevi, sì, ribellatevi al luogo comune che consegna alle vacanze estive il compito di rimettervi in pari con la letteratura a lunga lievitazione, infilando in valigia qualche malloppo che abbia oltrepassato i secoli e le dimensioni già ragguardevoli del vostro beauty case. Vi chiedono di correre la maratona, fingendo di non sapere che venite da un periodo di forzata inattività, da un lungo inverno di libri impilati sul comodino, attaccati nel cuore della notte, abbandonati dopo poche pagine per sopraggiunto svenimento da stress. Siete fuori allenamento e un atleta fuori allenamento rischia di inchiodarsi alla prima curva. Ci sarà un tempo per leggere la recherche, ma non è questo, non per tutti almeno. La quiete estiva può essere lo scenario ideale per ricominciare a scaldare i muscoli dell'immaginazione, con delle storie che siate in grado di condurre a termine in un tempo ragionevole, garantendovi quella carica di autostima che ogni traguardo raggiunto porta con sé. Era l'ultima segnalazione per oggi. Domani non ci sentiamo, lunedì è Ferragosto e anche in quel caso ci sarà una programmazione speciale. Ci risentiamo invece martedì 16 agosto. Buon Ferragosto a tutti.